avec son équipe. Steve a mis au point différents réservoirs. Statement, any minute from now. So 1-0 up. Ci sono novità anche su... Heute Journal mit Klaus-Peter Siegler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaberge. Bentornati alla finestra sul cortile e tanti auguri alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio 24. Avete scritto la lettera a Babbo Natale o a Gesù Bambino? Vostro figlio avrà chiesto il DVD dell'Era Glaciale 3 o il camper di Barbie. E voi? Tra i desideri degli adulti in questo Natale di fine crisi, ma non ancora di ripresa, c'è sicuramente un portafogli meno magro dell'anno passato. Ma si può chiedere a Dio il dono della ricchezza? Fede e prosperità materiale sono due sfere compatibili oppure in contraddizione tra loro? Di questo tema parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il sommario di oggi. America, il Vangelo della prosperità promette ai fedeli Gesù vi farà ricchi. Che sia stata proprio questa una delle cause della grande crisi. Praga, Gesù Bambino batte Babbo Natale. Il vecchio barbuto vestito di rosso è troppo americano e non piace ai ciechi. Inghilterra, picchia il banchiere anche tu. Un nuovo gioco permette ai cittadini britannici di sfogare la loro rabbia contro il mondo della finanza. Germania, il filosofo della tecnologia Sandro Gaiken difende i pirati di internet. Senza di loro non c'è democrazia. Francia, il piccolo principe è stato riciclato come icona ambientalista. Negli spot, il personaggio di Saint-Exupéry difende la sostenibilità, la biodiversità e l'ecologia. Belgio, mangiare vegetariano fa bene al clima. A Gent, una volta alla settimana, tutta la cittadinanza rinuncia volontariamente alla carne. La cristianità ha provocato il crash finanziario? Sono stati i credenti, i predicatori a mandare a picco le banche e le borse in America e poi nel resto del mondo? È la domanda che si pone Hannah Rosin in un articolo sul mensile americano Atlantic. Hannah Rosin è andata a trovare un predicatore, Fernando Garay, nella sua chiesa che si chiama Casa del Padre, che è molto frequentata soprattutto da fedeli latinoamericani. È una chiesa pentecostale in cui Fernando Garay predica una particolare teologia che si chiama Prosperity Gospel, chiamiamolo, potremmo tradurre il Vangelo della prosperità o la teologia della prosperità, in cui si cerca di mettere assieme due concetti che nella tradizione cristiana sono sempre stati visti come antitetici, cioè Dio e Mammona. Non soltanto il predicatore Garay, il pastore Garay, sostiene che Gesù, che uno deve amare il denaro nel nome di Gesù Cristo, ma addirittura sostiene che Gesù amava il denaro e che quindi chi crede viene benedetto dalla grazia e riceve in premio denaro, guadagni, redditi e case. E ci sono molti fedeli, anche frequentatori della Casa del Padre a Charlottesville in Virginia, che sostengono che Dio gli ha concesso la proprietà della casa benché loro non avessero i soldi per pagarla. Ecco allora come in qualche maniera anche questo tipo di credenze hanno alimentato la bolla finanziaria che poi è esplosa con le conseguenze che stiamo ancora scontando. Sostiene Hannah Rosin in questo articolo sull'Atlantic che il sogno americano era nato con la concezione calvinista per cui Dio premiava le persone che lavoravano duro, che lavoravano sodo e il frutto del loro lavoro a un certo punto diventava anche una prosperità materiale, terrena, quindi la salvezza non era rimandata ad un'altra vita ma poteva essere conquistata su questa terra. Oggi il sogno americano è diventato più avido, più sfrenato, senza scrupoli, e praticamente la ricchezza che viene dal cielo è quasi come una specie di lotteria, insomma, no? Non è il merito, non è lo sforzo, non è il lavoro che viene premiato, ma in qualche modo la fortuna. Si dà il caso che il pastore Fernando Garai, oltre a essere un consulente spirituale per i suoi parrocchiani, era anche un consulente finanziario, perché prima di mettere in piedi questa chiesa lavorava per una società finanziaria che per l'appunto concedeva mutui a chi voleva comprarsi una casa. Ecco come si intrecciano in qualche maniera la predicazione e la speculazione finanziaria in un paese contraddittorio come l'America. Ma intanto salutiamo il nostro ospite, che ringraziamo di essere qui con noi, Don Virginio Colmegna. Benvenuto alla Finestra. Grazie. Sul Cortile. Benvenuti a voi. Don Colmegna è un sacerdote da sempre impegnato nel sociale, presidente della Casa della Carità, un centro di accoglienza che a Milano dà ospitalità a italiani e stranieri in difficoltà, che è stato fondato dal cardinale Martini. Ecco, Don Colmegna, in Italia non abbiamo un fenomeno come la teologia della prosperità, per fortuna non abbiamo chiese. Abbiamo la crisi della prosperità. Ecco, esatto. Però non solo, anche in Italia, credo che dal punto di vista nostro l'approccio, evidentemente partendo dal Vangelo, che è il libro che fonda anche la fede dei discepoli di Gesù, credo che lì sia proprio difficile trovare una teologia della prosperità, se prosperità vuol dire provvidenza calata dall'alto improvvisamente, ma vi è una cura anche dal punto di vista della povertà come valore, come capacità di ridare continuamente il senso dell'esistenza, delle relazioni, un'attenzione alla dimensione della fragilità umana. Quindi mi pare, penso tranquillamente alle parabole, certo. Stolto stanotte stessa a Morrai, e quindi c'è questa attenzione, i beni ci sono, guarda, e poi il giovane ricco che obbedisce a tutti i comandamenti, sembra più bravo, e poi gli dice: ti manca una sola cosa, vai, vendi tutto quello che hai. Si dice il giovane si fece triste perché aveva molti beni, quindi, ma non perché si demonizzano i beni, ma perché c'è la dimensione spirituale del consegnarsi al Dio che ti fa dire che non c'è l'idolatria certo. dei beni. Questo è uno degli elementi di caratterizzazione spirituale che però incide sul sociale, sui rapporti, sull'economia, in termini anche di sviluppo, perché il tema della gratuità, e questa è una ricchezza anche dell'economia di oggi, non è un tema spirituale astratto, è una capacità di inserirsi dentro, è l'enciclica. Esatto. Caritas in Veritate ha tutta l'ultima parte sul valore dell'economia sociale, del sociale che si fa economia, della gratuità che si fa capacità di invenzione, di imprenditorialità, dentro il grande valore del bene relazionale, che è un bene che l'economia non è il fine ultimo, è decisa, è importante costruire anche questo, perché bisogna superare l'assistenzialismo, ma il bene relazionale è un bene importante. Ecco, in passato la cultura cattolica tendeva, almeno una parte della cultura cattolica tendeva, a criminalizzare la ricchezza, il profitto. Quest'ultima enciclica non sembra avallare queste tendenze, perché il profitto, no, l'efficienza economica non sono valori negativi, purché vengono messi al servizio, insomma, di finalità più ampie, che non siano quelle egoistiche dell'arricchimento individuale, insomma, che abbiano una, diciamo, una ricaduta sociale più larga. Questo è un po' il valore dell'enciclica. Credo che anche queste finalità altre non sono, per usare un termine nell'ideologia che c'era prima, sovrastrutturali, ma sono dentro certo. nella progettazione dell'economia, e quindi parlare di gratuità, parlare dell'attenzione alla solidarietà come bene solido da ricostruire, parlare della cultura del profitto che è capacità anche imprenditoriale, ma poi per dargli un valore sociale al profitto, che vuol dire ricostruire socialità, ricostruire giustizia, sentire che il tema della giustizia anche in un'ottica mondiale, perché poi le pagine dell'interdipendenza dei popoli, tra l'altro questa enciclica non cala dall'alto. I suoi riferimenti, per esempio, alla Populorum Progressio sono tantissimi, no? Cioè Paolo VI... È la più citata, anche perché lì è avvertì quasi in termini profetici, se mi permettete di usare questa parola, che i processi di globalizzazione che l'economia ha, dell'interdipendenza tra i popoli, adesso siamo nei... dove si discute anche dell'ecologia, del rapporto con l'ambiente, non sono problemi secondari. Il bene della terra è un bene anche che riguarda tutti, perché se non si cura la complessità e lo sviluppo in termini anche positivi, poi c'è una ricaduta catastrofica e preoccupante di chiusura in se stessi. Insomma, gli egoismi non creano sviluppo. Bene, noi ringraziamo Don Colmegna. Buon Natale a lei e a tutti gli ospiti della Casa della Carità. Auguri tantissimi. E ci spostiamo a Praga, ma restiamo sui temi natalizi. Pare che nella capitale ceca Babbo Natale non sia molto popolare. I commercianti mettono nelle vetrine non la sua immagine, ma l'immagine di Gesù bambino, che a quanto pare, insomma, piace molto di più ai praghesi. Forse una delle ragioni è che quando c'era il regime comunista, il primo ministro Antonin Zapotocki nel 1952 dice ormai non c'è più Gesù bambino, c'è un signore tutto vestito con la barba, perché i nostri operai, i nostri lavoratori e i loro figli non sono più nudi o vestiti di stracci, e così aveva mandato in Siberia il bambinello. E andiamo in Inghilterra, dove va molto di moda un gioco assai poco natalizio che si chiama Whack a Banker, picchia un banchiere. L'ha inventato tale Tim Hankin. Consiste nel dare delle mazzate a delle figure di personaggi senza capelli e senza volto, che raffigurerebbero i banchieri, per 40 pence. Uno deve buttar giù quanti più banchieri può in 30 secondi, e quando il gioco è finito viene una boccetta che dice: hai vinto, noi andiamo in pensione, ringraziamo molto i contribuenti per aver pagato le nostre pensioni. Questo accade nella pacifica civile Inghilterra. Per fortuna è solo un gioco, ma da quelle parti hanno ancora conservato il senso dei limiti e dell'umorismo. La finestra sul cortile. Si possono, si debbono mettere le briglie a internet, o questo cavallo imbizzarrito che ormai pare sfuggire a ogni controllo? In particolare è la domanda che si pone un filosofo tedesco, esperto di nuove tecnologie, Sandro Gaiken, in un articolo sulla Die Zeit, sul settimanale culturale tedesco Die Zeit, e in particolare si sofferma sul problema della pirateria informatica, sullo scambio di file, che preoccupa tantissimo sia i produttori di discografici, sia l'industria cinematografica, ma anche ormai l'industria editoriale, perché lo scambio di file è arrivato a comprendere anche i testi, i libri elettronici. La tecnica di scaricare da internet contenuti protetti da copyright viola certamente la proprietà intellettuale, dice Gaiken, ma attenzione a filtrare troppo i messaggi che circolano sulla rete, perché ci sono dei rischi concreti per la democrazia. In caso aumentassero i controlli politici e amministrativi su quanto succede e si scambia nei computer, rischia appunto di limitare fortemente la libertà dei cittadini, perché se tutti noi abbiamo paura poi di incappare in azioni illegali navigando in rete, fa sì che poi ci autocensuriamo sia i nostri comportamenti sia le nostre opinioni, con il risultato di indurre subdolamente ogni cittadino a trasformarsi in un suddito. E così, insomma, piano piano, invece di favorire lo sviluppo della libertà di espressione, come era un po' nel sogno dei fondatori di Internet, rischia di diventare al contrario un veicolo per, diciamo, un disegno autoritario di restrizione delle libertà individuali. Ma intanto abbiamo in linea un ospite che salutiamo, il professor Michele Ainis. Benvenuto alla Finestra sul Cortile. Grazie. Il professor Ainis è docente di diritto delle istituzioni all'Università di Roma 3. E, ecco, in questi giorni si parla molto di controlli a Internet, soprattutto dopo quel deliranti gruppi che si sono creati sulla rete, insomma, dopo l'aggressione subita dal nostro premier in Piazza del Duomo. Ecco, ma qual è il confine tra lecito e illecito sulla rete, professore? Come si fa a distinguere, insomma, tra libertà di espressione e reato o apologia di reato? Ma diciamo è una soglia molto difficile da identificare al millimetro, però quella soglia si supera quando l'idea diventa evento, cioè la parola diventa di per sé un fatto. Nella letteratura pubblicistica viene spesso ricordata una sentenza ormai vecchia di un secolo del giudice americano Holmes, che diceva la più ampia, l'ombrello più largo possibile sulla libertà di parola non potrebbe tuttavia proteggere un uomo che in un teatro affollato si mette a dire al fuoco, la gente scappa, qualcuno si fa male e allora quella parola diventa una cosa. Certo. Però proprio gli americani sono in questo senso molto intransigenti, più di noi, diciamo, coltivano l'idea della libertà di parola, intanto perché mettono dei paletti precisi all'istigazione a delinquere, cioè occorre una chiara intenzione delittuosa. Se io dico mi verrebbe voglia di strangolare mia suocera, come tanti di noi magari possono aver detto, poi non significa volerlo fare davvero. Ma un conto è dirlo in privato, un conto è scriverlo su Facebook, insomma, dove... Sì, e poi occorre, secondo requisito, anche un pericolo immediato. Ora, Facebook o gli altri, insomma, siti molto visitati in Internet, ma sono altrettante piazze, anche se ci un po' inganna il fatto che le parole le vediamo stampate sul video, ma a me pare che siano piuttosto chiacchiere come quelle che si fanno in piazza. Certo. E quindi, insomma, è un giocattolo fragile Internet. Se si comincia a sottoporre a dei controlli, come lei diceva in apertura, c'è il rischio che il giocattolo si rompa, perché la libertà di accesso, la libertà di navigazione, di comunicazione, il successo di Internet e in questo senso la potenza, diciamo, in termini di dialettica, anche la circolazione delle opinioni sgradevoli o sgradite. Io mi sono sempre ritrovato in quella dottrina liberale che le assegna un valore pedagogico, cioè diceva John Stuart Mill, si impara di più dalla rappresentazione dell'errore che da un bel sermone fatto da un pulpito, cioè se io mi confronto con una opinione estrema e deprecabile, quello mi tempra, cioè mi rende più robuste le mie opposte convinzioni. Quindi anche la lettura di Mein Kampf, insomma, in qualche maniera può essere pedagogica, insomma. Altrimenti dovremmo vietarlo, dovremmo vietare Lenin e quant'altro. Ecco, ma esistono comunque gli strumenti giuridici, legali, già nei nostri codici, per reprimere comportamenti delittuosi che attraverso lo strumento di Internet? Dunque, intanto c'è la polizia postale che diciamo, fa il suo lavoro in questo senso, però io credo che se si andasse a una deriva normativa che possa prevedere dei controlli di tipo censorio e amministrativi, e non affidati all'autorità giudiziaria con tutte le garanzie che si accompagnano all'intervento del giudice, ecco, questo sarebbe pericoloso, probabilmente anche incostituzionale. Del resto, insomma, purtroppo i casi in cui per esempio Google è stato oscurato o limitato, insomma, non sono propri delle democrazie occidentali, ma di paesi come la Cina, insomma, no? Perché Internet probabilmente fa paura al potere, e quando questo potere è un potere autoritario, dispotico, e poi reagisce gonfiando i muscoli, ma comunque è un contropotere Internet, cioè è un luogo in cui i protagonisti sono i cittadini e non i governanti, è un luogo quindi di libertà che credo che abbia molto, diciamo, aiutato a sviluppare, a nutrire il sentimento di cittadinanza, cioè di interessarsi alla res pubblica al di là dei canali istituzionali e formali che spesso sono ostruiti. Quindi davvero, insomma, stiamo attenti a non rompere il giocattolo. Certo, insomma, purtroppo il giocattolo viene rotto anche da comportamenti abbastanza scorretti di gruppi che agiscono, per esempio, anche su comunità come Facebook, perché molte persone in questi giorni si sono trovate iscritte a gruppi, ma anche a me è capitato, insomma, no? A cui non avevo mai chiesto di appartenere, perché purtroppo, insomma, ci sono delle organizzazioni spontanee, insomma, che sfruttano magari l'accesso al tuo nome, al tuo sito, insomma, per reclutarti in battaglie che tu non condividi. Basta saperlo, il navigatore avveduto sa che se incontra Silvio Berlusconi e ne incontra magari a decine, sono delle false identità. E uno degli effetti di Internet è un moltiplicatore di identità, vero o false che siano, e anche questo pone dei problemi poi sul piano probabilmente filosofico, interessanti. Infatti siamo pieni di avatar e di alter ego, insomma, sulla rete, no? Qualcuno diceva su Internet nessuno sa che tu sei un cane. Sì. Bene, ringraziamo il professor Ainis, a presto e buon Natale. E andiamo in Francia, sulle pagine del Nouvel Observateur scopriamo che il piccolo principe di Saint-Exupéry, una delle figure più popolari della letteratura universale, è diventato un'icona ambientalista. Gli eredi di Saint-Exupéry hanno dato l'autorizzazione a varie aziende e marchi di usare l'immagine del biondino astrale per propagandare valori come l'economia sostenibile, la biodiversità e l'ecologia. Non si sa se il piccolo principe avrebbe apprezzato questo suo riciclaggio come campione dell'ambiente, ma certo, dopo il fallimento del vertice di Copenaghen, la lotta al riscaldamento globale ormai esiste solo nelle favole. E restiamo in tema di clima e di ambiente. Mangiare vegetariano non fa bene solo alle bestie e alla nostra coscienza, ma aiuta anche a preservare il clima, perché allevare e macellare animali è un'attività industriale che produce anidride carbonica. Secondo il premio Nobel indiano Rajendra Pachauri, la rinuncia alla carne un giorno alla settimana comporta il risparmio di 170 kg di CO2 all'anno, un argomento che ha convinto l'amministrazione della città belga di Gent a rinunciare ufficialmente ogni settimana a una bistecca pro capite. Una decisione, dicono a Gent, che rispecchia la volontà generale di 240.000 cittadini convertiti al vegetarianesimo settimanale, macellai esclusi. E per oggi è tutto, si chiude la nostra finestra sul cortile. Ringrazio Vittoria Mussini in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Riccardo Chiaberge vi augura buon Natale e vi dà appuntamento a sabato prossimo, stessa ora.